potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma vengo anch'io, no tu no. Perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, no vengo anch'io, no tu no. Perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, oh, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, no vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Allora, buongiorno, cominciamo, vengo anch'io, un po' 10 minuti di ritardo, come al solito, no? Ormai diciamo che tutta una rassegna stampa, vengo anch'io, oggi affrontiamo subito il tema. A parte di parlare delle cose generali, però nella prima parte ci volevamo dedicare a questa situazione veramente gravissima che sta avvenendo in Siria, dove l'ISIS, i jihadisti stanno cercando di espugnare l'ultimo baluardo dei curdi siriani, non mi ricordo come si chiama, Kobane, e i curdi stanno opponendo una resistenza eroica, non lo so come definirla. Stanno impedendo da soli a cercare di impedire la conquista di questa città, perché in pericolo ci sono migliaia di persone in vita, e dall'altra parte, mentre si combatte quasi a mani nude proporzionalmente contro l'esercito ben armato, puta caso armi occidentali, i curdi con quello che c'hanno fanno resistenza e dalle spalle si trova l'esercito curdo che impedisce ai curdi turchi di entrare a dare sostegno ai fratelli, ai siriani, ma impedire che l'eventuale possibilità che i curdi siriani entrano in Turchia, i curdi siriani entrano in Turchia, cioè con l'indifferenza totale dell'Occidente, come ha fatto sempre, e l'Occidente che ha animato questa, diciamo, esercito del califfato, perché l'ha utilizzato quando gli ha fatto comodo anti Siria, anti Assad, adesso se lo trova che fa una guerra globale contro tutti, però non sanno più cosa fare. L'unici rimasti ancora a resistere sono i curdi, ma i curdi non possono vincere, perché se vincono la Turchia ci avrà problemi con i propri curdi interni. Migliaia di manifestanti in Turchia stanno facendo manifestazioni in tutte le città curde, con decine di morti da parte dei curdi, il quale la polizia e l'esercito turco non risparmia pallottole. Insomma, noi abbiamo questa situazione. Doveva essere presente qui una esponente italiana del popolo curdo, ma ci ha telefonato dicendo che c'ha altri impegni e stiamo cercando di raggiungerla telefonicamente affinché ci racconta la situazione. Solamente che mo troviamo il numero occupato, gli avevamo detto pure di restare attenta, insomma, vabbè, mo vediamo come andiamo avanti. Nel frattempo ne ragioniamo noi, perché ieri c'è stato questo convegno che Valentina citava sulla resistenza del popolo curdo, le manifestazioni che si stanno facendo pure qui in Occidente, in tutte le parti europee dove c'è una comunità curda si sta mobilitando. L'altra settimana persino hanno invaso, diciamo, piazza di Montecitorio, chiedendo che è ora, no, di dare una mano a questi popoli che resistono contro l'invasione dell'esercito dell'ISIS. Beh, tutta questa operazione cade nel silenzio, non molto attenzione da parte dei giornali, dei media, eppure lì si sta perpetrando questo massacro. Noi vediamo di trovare e di parlare con questa cosa, e poi avremo anche un altro contatto telefonico, che se non riusciamo subito con l'esponente del popolo curdo, chiameremo un giornalista del Fatto Quotidiano che si trova a Milano, che è stato espulso dalla Turchia sempre per questi motivi di sostegno al popolo curdo in Turchia. Insomma, questo è l'argomento che vorremmo affrontare in questa prima fase di discussione. Dopodiché ci vorremmo collegare a quello che sta succedendo, no? Io durante la rassegna stampa mi sono permesso di interrompere Valentina dicendo che, quando raccontava di Genova, che a Genova ormai sono due devastazioni e saccheggio di quella città fatta dalla speculazione, dall'indifferenza e dai tagli del governo. Tant'è vero, a Genova non si sono visti, adesso chiamano l'angeli del fango, perché non ci va nessuno, non ci stanno i pompieri, non ci sono protezione civile ufficiale, l'angeli del fango a gratis, sti ragazzi stanno a fare il mazzo, nessuno le paga, perché è il nuovo modello del lavoro di Renzi, no? Vuoi lavorare? Vai, lavora, leva il fango, non si fa niente però per prevenire che il fango invada tutte le volte che piove le città, perché poi quello che sta avvenendo sono cose naturali, nel senso, quella è una zona in cui il tempo, quando piove, fa anche temporali, no? Autunno, avvengono normalmente queste cose, ma non è possibile registrare disastri e morti ogni volta che piove, e poi dicono che la colpa non si sa mai di chi è, sono il mancato manutenzione dei cosi. Vabbè, io metto uno stacco musicale cercando di metterci in contatto con il rappresentante curdo, se no chiameremo quello di Milano. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi, conosco quel che fare una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Altro mondo, hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Vai Serafino. Ciao Lorenzo, ci senti? Pronto? Pronto? Pronto Lorenzo, ci senti? Sì, vi sento. Guarda, intanto ti salutiamo e c'è salutiamo il tuo ritorno dopo un anno ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ci sentimmo alcuni giorni dopo i fatti di Piazza Taksim e sì, abbiamo saputo, io ho saputo da te che poche settimane dopo, qualche mese dopo, tu hai avuto anche l'espulsione da parte dell'autorità turca dalla Turchia. Ovviamente questa espulsione è stata ammantata da questioni di carattere amministrativo burocratico, in realtà è un'espulsione politica al pari di tanti altri giornalisti, di tanti altri osservatori, compagni e compagne che sono stati espulsi. Quindi ecco, intanto volevo sapere una cosa: come era maturata, in quale quadro repressivo sono maturate queste espulsioni? Poi passeremo invece alle questioni che ci riguardano direttamente nella giornata di oggi, con la situazione a Kobane, alla frontiera turca, le manifestazioni che sono avvenute nelle tante città turche che hanno visto anche lì un'attività repressiva da parte dell'esercito, della polizia di Erdogan. Ecco, intanto la prima questione: in quale quadro repressivo sono maturate, diciamo, queste espulsioni, Lorenzo? Ma diciamo che subito dopo, anche durante i fatti di Piazza Taksim dell'estate di due stati fa, loro come governo turco avevano i nomi di chiunque scrivesse o facesse dirette radio dalla Turchia, a prescindere dalla lingua. Semplicemente avevano queste liste, quindi nel momento in cui uno usciva dalla Turchia, arrivava in aeroporto, se malauguratamente doveva tornare nel proprio paese in quel periodo, cosa che per me è successa per motivi personali, ne approfittavano in qualche modo per dare un visto di espulsione come persona non grata, trovando dei cavilli, diciamo, di pratiche di espulsione come immigrazione clandestina. In realtà erano cavilli che creavano loro stessi. Diciamo che questa è stata un po' la mia sfortuna, nel senso che se io non fossi dovuto tornare in quel periodo probabilmente sarei riuscito a rimanere all'interno del paese. Ho avuto questo problema, diciamo, mio, e quindi ne hanno un po' approfittato. Però ecco, dopo, tenendo contatti anche con la Turchia, anche con amici, con qualcuno anche che aveva posizioni anche di contatti all'interno della polizia o dell'esercito eccetera, diciamo che è proprio una situazione che non si può risolvere, nel senso che io personalmente ho avuto una espulsione come persona non gradita fino al 2018, e fino al 2018 io in Turchia non posso metterci piede, neanche se dovessi fare scalo, diciamo, a Istanbul per andare da qualche altro, in qualche altra nazione. Quindi è stata una cosa abbastanza grossa, nel senso che chi prendevano mandavano via, insomma, a prescindere dalla lingua in cui si comunicava. Senti Lorenzo, ma tu comunque sappiamo che hai mantenuto e mantieni i contatti in Turchia con un certo numero di compagne e di compagni, quindi sei abbastanza informato. Qual è la situazione nelle città, diciamo, che hanno visto le manifestazioni dei curdi, e diciamo qual è il livello di repressione che il governo di Erdogan sta esercitando in questa fase? Ma io vi posso parlare soprattutto di Istanbul, dove continuo a tenere contatti e a collaborare ancora con diciamo le persone per cui io in Turchia, oltre al Fatto Quotidiano, lavoravo, che è appunto l'associazione Scoprire Istanbul. Ma in realtà la repressione è molto forte, perché è forte anche della vittoria alle elezioni. Ormai loro non hanno assolutamente più nessuna remora anche nel tipo di reazione che hanno nei confronti delle manifestazioni. Le manifestazioni sono tante e molto numerose, anche perché in realtà la situazione curda negli ultimi anni, almeno questo è quello che io ho un po' analizzato, è molto cambiata, nel senso che se noi siamo abituati a pensare a un popolo curdo molto legato al PKK, quindi comunque una frangente di sinistra e che prendeva comunque dentro solo una parte del popolo curdo, in realtà in Turchia sono andati in manifestazione, a parte filo curdi simpatizzanti, ma anche fazioni curde lontane anche, diciamo, dal mondo della sinistra. Su tutti Huda Par, che è comunque il partito dei fondamentalisti islamici curdi, che se uno un po' riflette potrebbe quasi essere più vicino alle posizioni di Erdogan o comunque anche di un ISIS rispetto a una frangente antagonista di sinistra. Però diciamo che questo inasprimento di quello che sta capitando in Siria, della totale assenza della presenza turca anche in quello che sta succedendo a Kobane, sta in qualche modo unendo proprio a livello popolare tutti, diciamo, i curdi che stanno in Turchia. Io credo che sia una posizione quella che sta prendendo il governo turco, a parte di repressione delle manifestazioni eccetera, ma anche l'impedimento di cittadini curdi di poter andare in Siria per poter combattere con i loro compagni eccetera, il fatto di stare un po' a guardare quello che sta succedendo, credo che sia un'arma a doppio taglio, alla lunga lo sarà per Erdogan, perché se è vero che da una parte loro in qualche modo hanno paura di una zona cuscinetto che in qualche modo possa essere sotto il controllo del PKK o dei curdi, è anche vero che il non intervento in aiuto dei curdi contro l'ISIS farà sì che le manifestazioni e la contestazione all'interno della Turchia sarà sempre più forte e arriverà probabilmente un punto che sarà anche ingestibile, non dico a livello attraverso le manifestazioni, ma anche semplicemente con atti di terrorismo o comunque con una reazione anche violenta da parte di persone che in qualche modo non si stanno sentendo rappresentate minimamente da Erdogan e dall'AKP. Senti, ti volevo fare una domanda rispetto alla posizione del governo turco e la Siria, perché c'è una contraddizione di fondo, nel senso che il governo turco nel 98 fece un accordo con la Siria per espellere i militanti del PKK che stavano all'interno della Siria, e questo poi ha dato luogo alla nascita indirettamente del PD successivamente. E contemporaneamente adesso il governo turco invece parla, che come premessa indispensabile per il suo intervento, quello dell'abbattimento del regime di Assad. C'è una contraddizione, sono terrorizzati dall'idea che si possa creare una zona, una sorta di buffer state ai suoi confini del Kurdistan. E questo fatto che tu dicevi a proposito del fatto che le mobilitazioni ormai coinvolgono anche dei settori che non sono più legati semplicemente al PKK o all'antagonismo di sinistra, forse ti dimostra che c'è un consolidamento dell'identità nazionale curda, e forse si sta anche in qualche maniera definendo una classe potenziale e dirigente curda all'interno della Turchia e di tutta l'area che ha a che vedere con il Kurdistan. Ma io credo che in realtà siano un po' ci leggo un po' quello che dicevo prima, nel senso che la posizione di Erdogan e del suo governo è un'arma a doppio taglio. È vero che hanno fatto gli accordi con la Siria, in realtà sono stati fatti prima che Erdogan andasse al potere, però sono stati fatti accordi perché in quel momento la questione curda era comunque abbastanza importante, diciamo primaria, per il governo turco. È vero che negli anni, da quando è andato su Erdogan, sono stati fatti degli accordi con il PKK per cercare un attimo di ritrovare una situazione più tranquilla, ed è diventato primario lo scontro con la Turchia, con la Siria. Perché? Perché in realtà sono due posizioni completamente diverse, quelle di Assad in qualche modo e quella di Erdogan. Erdogan senz'altro ha un occhio, anzi forse due occhi, verso tutta quella che può essere la componente religiosa islamica della Turchia, perché sono voti per l'AKP fondamentalmente. Assad senz'altro sempre ha mantenuto una linea anche di governo più laica in Siria, è una cosa che questa si è deteriorata negli anni. Però come dicevo, in realtà questo credo che diventerà un grosso problema alla lunga, perché se da una parte tu vai contro Assad, vuoi andare contro il governo siriano, che non dimentichiamo comunque è un esercito a tutti gli effetti, un esercito con l'aviazione, con la fanteria e tutto quanto, quindi puoi rischiare di innescare una guerra contro la Siria, che non si tratta più di qualche ribelle. E quindi in questo modo tu potresti anche appoggiare i curdi, però se poi appoggi in qualche modo i curdi, tu cosa fai? Gli dai in qualche modo quell'autonomia che tu non sei poi così contento di dargli. Si trova per me la Turchia in questa situazione un po' ambivalente, che è molto pericolosa per la stessa Turchia. Il fatto stesso che il 2 ottobre sia stato votato dal Parlamento turco il fatto di lasciare comunque una zona di passaggio per poter praticamente andare in Siria per la coalizione che dovrebbe, fra virgolette, bombardare l'ISIS, perché poi se uno guarda i filmati eccetera, insomma è un pochino tutta una favola dal mio punto di vista. Comunque in realtà questi canali che loro stanno utilizzando per bombardare, che dovrebbero essere utilizzati per bombardare l'ISIS, lo dimostrano di determinati reportage. Ce n'è uno anche molto bello fatto da un collega del Fatto Quotidiano, in cui vengono intervistati sul confine curdi e viene documentata quello che sta succedendo. In realtà questi canali vengono utilizzati per fornire le armi allo stesso ISIS, che combatte in qualche modo contro i curdi, però in qualche modo destabilizza anche il governo di Assad. Credo che si sia veramente messo in un vero e proprio ginepraio Erdogan, con dichiarazioni che poi vengono smentite il giorno dopo, con posizioni del governo che poi dopo vengono praticamente negate. Non credo che sia in una situazione molto bella. Senti, volevo coinvolgere nella nostra discussione anche Nil Gyun dell'ufficio informazione del Kurdistan in Italia, che abbiamo qui nei nostri studi. E prima cosa ti volevo chiedere, insomma, se hai notizie sulla situazione di Kobane, e poi naturalmente, insomma, se questa questione del Kurdistan siriano ha a che vedere anche con le posizioni del partito dell'Unione Democratica, che è un partito che non solo è affiliato al PKK, ma c'è anche una visione della realtà completamente differente rispetto alle forze che sono in campo, perché è una visione che va oltre le divisioni etniche, che riguarda un processo democratico anche all'interno di una Siria diversa. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Allora, la situazione a Kobane, io credo che Lorenzo, la domanda è, cerchiamo di coinvolgere Nil Gyum dell'ufficio informazione del Kurdistan, che è presente qui nei nostri studi. Tu rimani in ascolto, ovviamente. Ok, perfetto. Sì, da 26 giorni continuano gli attacchi da parte dei banditi di Daesh, oppure altro chiamato ISIS. Perché sappiamo che loro si arrabbiano quando si dice ISIS e quando si dice Daesh. Da 26 giorni ci sono anche, dall'altra parte c'è una resistenza molto forte, storica, contro quegli banditi da parte delle forze del popolo curdo, si chiamano YPG e YPG, anche un esercito delle donne c'è dentro questo esercito. da 26 giorni c'è nessuno di quella coalizione internazionale ha intervento militarmente. Quando hanno attaccato oppure hanno fatto bombardamenti, hanno fatto in questi luoghi dove non c'era l'ISIS, oppure hanno fatto prima di questo, prima di attaccare, ha fatto sapere la Turchia, e la Turchia sta collaborando con l'ISIS, e così non ha avuto nessun effetto questi bombardamenti, e loro sono si potevano avvicinare un po' di più verso la città oppure verso il centro della città. E così abbiamo saputo che due strade in Kobani adesso è sotto loro controllo, e da tre parti, da tre lati stanno attaccando, e la quarta lato della nord oppure della Turchia, la Turchia gli sta aiutando, sostenendo l'ISIS con armi, con il proprio esercito del governo turco. E questo sostegno fanno molto aperto il governo turco, perché abbiamo saputo che hanno costruito dei ospedali per i banditi feriti, e trasportano quelli feriti in delle parti di nord, e perciò non vogliono che i curdi che adesso stanno sul confine, che vogliono dare sostegno, oppure non vogliono andare via per sostenere il Kobani. Hanno attaccato anche questi in questi ultimi giorni. In Turchia solo nelle manifestazioni che continuano da 3-4 giorni hanno il poliziotto del governo turco, oppure anche alcuni banditi fascisti in Turchia, anche della Hezbollah, hanno ucciso circa 30-40 gente, persone che hanno solo manifestato contro l'ISIS, contro questo genocidio. E così anche si vede che c'è un sostegno molto aperto da parte della Turchia. Senti, no, volevo dire una cosa a tutte e due, anche a te Lorenzo. Qui troppa gente fa il doppio gioco, no? È evidente che Erdogan fa finta di partecipare alla coalizione, ma in realtà, come abbiamo sentito, finisce per sostenere di fatto l'ISIS. Fa il doppio gioco il Qatar e l'Arabia Saudita, che nominalmente dovrebbero far parte della coalizione anti-ISIS, ma continuano, diciamo, a sostenerli materialmente, finanziariamente. Fa il doppio gioco gli Stati Uniti, che da una parte, pressati dal fatto di non dispiacere ad Erdogan, non prendono posizione; da un'altra parte, per la paura di sostenere Assad, non prendono posizione; dall'altra parte, la paura che si crei, come dicevano i compagni, una sorta di cuscinetto di un territorio curdo in mano ai curdi. Non sanno che pesci pigliare da una parte, ma fanno i doppi giochisti, fino al cinismo di Kerry, che dice pubblicamente: non è la nostra priorità in questo momento Kobani. Questo qui, ecco, come commentate, diciamo, anche questa posizione degli Stati Uniti? Pronto, Lorenzo? Sì, no, ok, ma sembra un po', cambiano un po' gli scenari geografici e anche culturali, però ricordano un po' quelle posizioni che c'erano mentre c'era la guerra in Afghanistan dopo il ritiro sovietico, nel senso che quando talebani e mujahideen ancora si scontravano per il controllo di Kabul e di altre zone, la posizione americana era quella, in qualche modo, che non era la nostra priorità. Poi dopo improvvisamente è diventata la loro priorità, quando in qualche modo si sono trovati in casa quello che però poi sappiamo dal 2001 e andare avanti. Io credo che in realtà sia abbastanza una posizione subdola, nel senso che è chiaro che l'ISIS viene finanziato da paesi dell'area araba, parliamo degli Emirati, del Qatar, del Bahrain, eccetera, però anche dalla stessa Turchia. La Turchia è all'interno della NATO insieme agli Stati Uniti, senz'altro ci sono più colpe, perché in qualche modo l'ISIS probabilmente è utile. L'ISIS è utile alla Turchia, l'ISIS è utile anche agli Stati Uniti, l'ISIS è utile agli armatori, perché è innegabile che l'ISIS si arma con l'aiuto esterno, si arma con l'aiuto dell'Occidente. Da dove passano i carri armati, da dove passano le armi per andare dai miliziani dell'ISIS? Passano ovviamente anche dalla Turchia, che è un alleato degli Stati Uniti. Quindi io credo che ci sia veramente una sorta di bugia collettiva detta da questa sorta di fazione che dovrebbe combattere poi questi jihadisti. Nilgun, senti, io voglio fare a te una domanda. Ieri si è svolto qui a Roma un convegno molto interessante, e durante al quale hanno partecipato compagne, militanti, giornaliste curde e non solo, chiaramente. Senti, io la domanda che ti rivolgo è questa: qual è il ruolo delle resistenti e delle donne nel cantone di Kobane, ma insomma in generale nella resistenza del Rojava all'ISIS? Ma ricordiamola, è una resistenza non solo all'ISIS ma anche ad Assad, questo è molto importante in questo senso, è molto precedente rispetto a quanto non si pensi, cioè le donne, i combattenti e le combattenti difendono quel territorio non da ieri ma già da 2 anni, questo è bene ricordarlo. Qual è il ruolo delle donne in questa resistenza, in questa lotta? Sì, le donne in questa resistenza hanno un ruolo molto importante, perché da 30 anni, da 40 anni c'è la lotta della libertà del popolo curdo, e in questa lotta dall'inizio fino ad oggi c'era la partecipazione delle donne sempre in primo piano, anche basato come partecipazione del popolo curdo, perché la donna è il centro del popolo, pure della popolazione, è un centro molto importante, perciò nella lotta anche armata oppure anche in altri modi la partecipazione delle donne vediamo una cosa molto importante e storica, perché anche secondo la verità o la realtà del Medio Oriente non si vede molto la donna in primo piano, anzi non si vede più mai, e perciò per cambiare questa mentalità feudale, questa mentalità del capitalismo che ci sta dicendo prima si deve uccidere la donna, era anche una mentalità di Hitler, voglio ricordare, e contro questa mentalità, di cambiare questa mentalità, anche per avvicinarsi della mentalità della libertà si deve partecipare la donna molto forte, perché la donna può far diventare il popolo, può far diventare l'uomo, può far diventare tutto quello che si deve cambiare. E c'è una si può dire che fondamentalmente questa lotta è tra due ideologie, l'ideologia del capitalismo e l'ideologia della libertà dei popoli. E gli stati-nazioni in questo secolo, secondo di me, non hanno più la forza di fare repressione come in altri secoli contro i popoli. Allora i popoli, come anche il popolo curdo, hanno iniziato questa lotta di dire la resistenza è possibile anche se è difficile, e con la partecipazione delle donne in primo piano. In Rojava, in questo sistema autonomo, c'è adesso per esempio in questi 3 cantoni c'è un'amministrazione dove sono in tutte le 3 cantone le donne sono 40% sono da una parte dell'amministrazione, giocano un ruolo in tutte le amministrazioni oppure in tutti i modi di sistemare oppure di costruire questa vita democratica. E questo nella pratica abbiamo visto che infatti fa cambiare la mentalità dell'uomo, dove si vede che è possibile di fare oppure di reagire in un modo democratico pacifico, perché questa ideologia del capitalismo è dall'altra parte l'ideologia dell'uomo, oppure dell'uomo che ha il potere nel mano, oppure come gli stati-nazioni che giocano quel potere e vogliono come anche cartamente di essere sempre il potere. In Medio Oriente c'è nel centro di queste lotte fra popoli e gli stati-nazioni c'è la lotta delle ideologie oppure delle culture dei popoli che possono resistere e che vogliono avere una vita oppure un un modo di vivere in un modo democratico e pacifico. Questa è la lotta fondamentale e le Stati Nazioni non accettano questo e hanno paura che, come il popolo curdo e altri popoli o per altri colori etni diventano anche come i curdi chiedono un'autonomia. Questo fa molto paura a loro. Senti, ti volevo chiedere, Nilgum, a proposito della zona di Rojava, come nelle zone, diciamo così, liberate, come viene organizzata l'amministrazione? So che per esempio nell'IPG ci sono anche le donne che combattono, ci sono le elezioni degli ufficiali, e invece qual è il livello, diciamo così, di democrazia partecipativa che c'è nelle zone che sono governate dal Partito Unità Democratica lì nella Rojava? Sì, noi chiamiamo questa autonomia, sistema autonomia, come una rivoluzione di Rojava, perché era molto difficile di scegliere una terza via, perché c'era solo ci davano solo due alternative, dicevano o fate con l'opposizione oppure con il governo siriano. E noi, come popolo curdo, con gli altri popoli arabi, armeni, siriani, cristiani, abbiamo scelto di non far parte a queste due vie e abbiamo scelto un'altra via che dice che si può vivere insieme senza di avere un conflitto oppure senza avere altri problemi. E questo hanno, in pratica hanno, ci hanno, hanno detto che per esempio come la carta della società di Rojava sono delle leggi dove ognuno ha il diritto di partecipare con la sua religione, con la sua lingua, con la sua cultura, e questo non è vietato. Adesso c'è ufficialmente sono 3-4 lingue ufficiali, oppure nelle amministrazioni sono anche armeni, arabi che partecipano. Allora non è solo sotto le mani dei curdi, oppure non c'è solo un potere, sono tantissimi colori che possono e ci dicono che è possibile di vivere insieme in questo modo democratico. E questa esperienza abbiamo visto anche nella storia, abbiamo visto che si può vivere insieme. Anche nell'Unione Europea ci sono esempi di questi, quegli esempi ci hanno detto che in Medio Oriente si può creare e costruire un sistema democratico, perché è un bel esempio anche per gli altri paesi in Medio Oriente, perché così divisi in tantissimi stati, nazioni, non si può. Abbiamo visto che creano sempre crisi, perché anche secondo il capitalismo, del sistema capitalismo, la mentalità è così, oppure il modo di intervenire è così. Vogliono dividere nelle parti piccole e poi vogliono amministrare, perché così diventa più facile di amministrare. Questi confini che c'erano fino adesso vogliono ridividere oppure ridisegnare di nuovo questo territorio, però i popoli del Medio Oriente sono... conosciamo che sono popoli anti-americani, oppure che non aspettano da fuori un intervento. Anche adesso non chiedono un intervento militare, vogliono solo un aiuto umanitario, perché da mesi, iniziando di Schengen, loro si difendono da solo e non c'era la coalizione internazionale, non c'era nessuno. Allora sono incapaci di difendersi, però adesso a Kobani mancano le armi. Però quelli dell'amministrazione di Rojava e di Kobani dicevano che fino alla fine possiamo difenderci, anche se non c'è nessun intervento militare. Senti Nilgun, io volevo farti un'altra domanda, ma magari la rivolgo anche a Lorenzo, così poi lo salutiamo. È una domanda forse un po' spinosa. Diciamo che il modello di autonomia del Rojava è molto diverso dal modello di autonomia a cui siamo stati abituati con il Kurdistan iracheno, diciamo, no? Non è un caso che gli americani e le forze alleate stiano armando i peshmerga iracheni e non stiano dando armi a Rojava, ai curdi siriani, e non solo armi, ma neppure aiuti, non arrivano neppure gli aiuti, non arriva il cibo. E qual è questo a beneficio di chi ci ascolta, è bene spiegarlo, quali sono i rapporti anche con i curdi iracheni in questo momento. E io capisco che è una domanda spinosa, una domanda difficile, però forse è bene affrontarla. No, non è molto difficile di rispondere, perché secondo la scienza sociologia, una cosa è mai è bene oppure per tutto male. Anche nel popolo curdo sono curdi che sono molto vicini al Stato, ai Stati, nazioni, e curdi che hanno questa sapienza di resistere. E se si ricerca un po' nella storia dei curdi oppure nella storia dell'umanità, si vede sempre questi due lati, che uno è da una parte sempre vicino al potere, e l'altro è vicino alla verità, al popolo. E la verità dell'umanità, anche nell'inizio della storia, era così, che ha vissuto un lunghissimo periodo in un modo molto pacifico, in un modo molto democratico. E questo periodo, la cultura del Stato, del potere, c'è da 5.000 anni oppure un po' di più, però è un periodo non così lungo. Questo ci vuol dire che l'umanità ha vissuto la vita in un modo pacifico. Allora è possibile di diventare di nuovo, vivere così. E in Medio Oriente c'è questo problema. Gli Stati Uniti, come unico potere, oppure che vogliono diventare l'unico potere nel mondo, non vedono, oppure non, secondo me vedono molto bene, sanno anche molto bene, però fanno così, che di dire che non esiste un'altra strada di vivere, un altro modo di vivere, c'è solo il modo, oppure la strada del capitalismo. Però non è così. Tantissimi luoghi del mondo, nelle lotte, nelle rivoluzioni, abbiamo visto che è possibile, oppure che gli stati e nazioni non possono neanche fare un passo avanti senza i popoli. È il popolo che è la forza che adesso reagisce contro queste cose. Anche nel caso dei Kobani non c'è, è giusto, non c'è un sostegno da parte dei stati e nazioni, oppure stati occidentali, diciamo, però nella parte dei popoli, la comunità internazionale, c'è un sostegno molto forte. Questa è la verità, e questo vuol dire che dipende dal popolo, oppure della lotta insieme dei popoli. Anche se stati e nazioni non ci aiutano, non è una cosa molto strana per noi, perché erano sempre i nostri nemici in altri modi. Magari qui in Europa, in altri paesi, fanno la lotta, fanno la guerra, oppure l'attacco contro l'umanità, contro i popoli, in un modo dove non si vede la guerra, però in Medio Oriente si vede, perché fisicamente e militarmente è una guerra. Però per esempio quel crisi economico era anche una guerra, era anche un attacco contro i popoli, contro la vita dei popoli. Allora i stati e nazioni non sono più incapaci di rispondere ai bisogni dei popoli, non possono più creare oppure difendere la vita del popolo, perciò non sono più utile. È il secolo dove finisce il potere di loro, e così, perciò hanno molta paura che cadano e finiscono per sempre. E questa è la lotta tra noi e questo sistema, ideologicamente anche. E questa ideologia da parte delle donne verrà più di più, come si può dire, le donne in primo piano fanno la lotta di più bene. I nostri compagni, non voglio che si arrabbiano, però la verità è così. Anche secondo la ideologia della donna, anche biologicamente, la donna è più vicina alla verità, alla libertà. E l'uomo può, dopo la donna, dopo che si libera la donna, può diventare libero. Allora c'è bisogno di liberare primo piano la donna, la donna curda, oppure tutte le donne in mondo, e dopo si può parlare di una libertà generale. Però la lotta prima deve fare la donna. E questo, le donne curde in questi 30-40 anni ci sono riusciti di cambiare un po' la mentalità di questo uomo, proprio l'uomo del Medio Oriente che vede la donna come una metà, come niente. Adesso però ci sono compagni, ci sono genti che dicono senza le donne non potevamo nemmeno resistere, nemmeno combattere. E questa è la realtà che ci dice si può cambiare, il cambiamento è possibile. Però nel sistema del capitalismo cambiamento non esiste, non c'è, non si può cambiare, una cosa è sempre così. No, però non è così, non è solo una linea diretta che si deve sempre andare, c'è il dialettismo, no? Questo per noi è importante, anche se c'è questo periodo adesso come una guerra, anche un pericolo del genocidio, sappiamo che con la resistenza, la forza del popolo si può resistere, anche se non siamo molto incapaci, militarmente incapaci di combattere, c'è la volontà dei genti che è pronto di fare tutto quello che può fare. Voglio dare un esempio, c'era un ragazzo con solo una braccia, è venuto di partecipare alle forze di YPG che voleva anche combattere con altri compagni, perché la sua età era piccola e non aveva una braccia. I compagni non hanno accettato e lui ha pianto e è andato via. Questo vuol dire c'è un morale, c'è una psicologia molto forte, e questo quelli banditi di ISIS non hanno questa psicologia, no, anzi hanno molta paura quando vedono le compagne che combattono contro loro, perché loro dicono che se vengono uccisi da una donna non possono andare in paradiso. E questo solo ci basta, posso dire. Beh, questo non so che bambini. Senti, volevo coinvolgere Lorenzo, non so se ci sta ancora. Pronto? Sì, ci sono. Mi sa che ormai è caduto il satellite, diciamo così. Senti, no, mi veniva da pensare rispetto a quello che tu dicevi alla crisi degli Stati-Nazione che non garantiscono più nulla, però mi chiedevo, nella prospettiva del Partito di Unità Democratica, c'è la creazione di uno Stato curdo oppure questo discorso va inserito all'interno di un nuovo modello sociale che possa coinvolgere anche una Siria differente o un Medio Oriente differente? Cioè c'è per dirla in maniera semplice, c'è un nazionalismo curdo? I movimenti contro il capitalismo usano spesso un slogan, dicono un altro mondo è possibile. Questo nella teoria è giusto, però si deve praticare. Vediamo che questi movimenti non praticano molto questo che dicono, anche come una critica per la sinistra, per i comunisti, per il circolo che dicono siamo socialisti. Noi nella pratica di Rojava abbiamo visto che democrazia, perché queste parole usano anche i forze occidentali, forze imperialisti, capitalisti, oppure anche parole. Abbiamo visto che non è così come si usa, se la democrazia è com'è così quella degli Stati Uniti oppure quella dell'Unione Europea oppure quella di Assad oppure altri, allora non si può dire che è democrazia, si deve cambiare i nomi oppure dare altri significhi. E in questo caso come Stato, perché ho detto che gli Stati-Nazioni non risolvono più i problemi del popolo, allora non c'è bisogno dei stati, perciò anche i curdi non vogliono uno stato, non vogliono nemmeno usare gli stessi strumenti dello stato. Se usiamo questi strumenti diventiamo anche noi come uno stato, oppure diventiamo anche noi come un potere che vuole essere sempre unico potere, e questo non è la nostra cultura, nemmeno la nostra ideologia, perché come culturalmente i curdi sono abituati di vivere sempre insieme con altri colori in questo territorio. Purtroppo tante volte perché hanno vissuto le guerre, però culturalmente e eticamente sono non abituati di essere sempre una forza, un potere, oppure fare repressione a altri. Gente oppure essere umano per i curdi è sempre uguale, anche tra se sono altri colori, diciamo. E invece il governo iracheno, oppure Barzani come partito, perché stanno collaborando con le altre stati nazioni, vogliono creare un altro stato che diventerà in futuro come un stato come altri stati in Medio Oriente, che ha solo interessi al potere, al proprio forza. E questo perciò ideologicamente non accettiamo, anche se loro sono curdi, perché nella pratica abbiamo visto quando hanno attaccato i Schengen, loro sono scappati via, i Peshmerga hanno lasciato da solo questi popoli, questa gente. Vuol dire che non pensano agli interessi del popoli, neanche del popolo curdo, pensano di diventare oppure essere sempre al potere, rimanere così con i soldi a mano oppure il petrolio a mano. Questo non sono i nostri interessi. No, il popolo curdo non ha mai detto che vuole uno stato. I stati piano piano nelle storie sono diventati come meccanismi che creano dei crisi, creano dei problemi, creano delle guerre. E noi non vogliamo vivere sempre una guerra, un conflitto. Ma non è solo questo il modo della vita, si può vivere anche normale, anche insieme. E questo è non possibile se si diventa un Stato. Perciò noi chiamiamo il nostro sistema il confederalismo democratico. Vuol dire anche con una legge insieme, oppure con non con confini, con un'amministrazione dove può decidere il popolo stesso, non solo un potere. E questo per noi è importante. Da nessun paese dove ci sono stati nazioni i popoli non hanno il diritto di decidere. Anche qui in Italia ho visto questa realtà, il governo italiano non ascolta il popolo italiano. Se poteva ascoltare la verità, la realtà d'Italia, diventare un tipo bello oppure buono. Questo vuol dire che sono due altre strade del Stato e del popolo, e quando diventano così, allora si allontaneranno dal popolo, e così diventano anche un po' senza forza, no? E così si può dire, è una teoria, può dire che da solo un Stato non può andare avanti senza il popolo, e caderà piano piano. E perché non vogliono cadere, vogliono evitare le crisi, per dire c'è bisogno di un Stato, c'è bisogno di intervenire di un Stato, noi siamo in grado di risolvere, come gli Stati Uniti fanno adesso per Medio Oriente. Dicono, creano le crisi e dopo dicono dobbiamo intervenire perché c'è crisi e voi non potete, non siete incapaci di risolvere queste crisi, solo noi come l'unica forza siamo incapaci di risolvere. Però questa bugia non crede nemmeno un bambino adesso. No, va bene, non lo so se ci sono altre questioni che vogliamo porre. Noi avevamo diviso un po' la trasmissione di oggi in due parti, mi pare insomma che questo primo approccio anche insomma con coloro che sono stati qui in studio, in particolar modo con te, è stato molto proficuo. Noi speriamo di dar seguito anche a questa discussione, sperando che poi le cose a Kobane innanzitutto volgano, anche se purtroppo dobbiamo essere un pochino pessimisti per tutte le cose che abbiamo analizzato, possono volgere al meglio. Noi speriamo di riaverti qui con noi per rifare il punto nelle prossime puntate su questa situazione, come sta evolvendo. E così salutiamo, ma mi pare che già sia caduto. No, però volevo fare a lei l'appello che abbiamo fatto in rassegna stampa. Dato che c'è sta questa moda in Italia, no, nell'Occidente, a far vedere le divise, le bellissime ragazze curde che combattono, le stanno facendo diventare come un modello anche di abbenalini e di abbigliamento, è stato inverno, insomma. Voi ci avete questa passione, questa ideologia che non volete essere delle modelle per vestire i snob occidentali, ma siete vestiti in quel modo per liberare un popolo dall'oppressione. Insomma, volevo che questo appello dalla tua voce uscisse dai microfoni prima di salutarci. Sì, la vera bellezza della donna non sono i vestiti oppure quello che si vede da fuori, è l'identità e l'ideologia oppure i pensieri di questa donna, tutto insieme, non solo come secondo questa ideologia del capitalismo che fa dividere la realtà, la verità. Noi vediamo la donna, come ho già detto, come un'attrice, un ruolo che può far diventare anche un popolo per la liberazione, e questo è una realtà che il mondo, il capitalismo non vuole credere, perché la donna in capitalismo hanno fatto diventare come un metà, come una dove si vede solo da fuori, dove si vede solo i vestiti della donna oppure la fisica della donna, e questo per noi non conta niente, in modo non conta. La bellezza secondo noi è la bellezza dei pensieri che si vede anche fuori, pure dalla fisica, e tutto insieme con la biologia, e la donna è bella secondo di noi, non queste pubblicazioni che fanno. Purtroppo il capitalismo, sappiamo, è un'idrovora cinica, che specula e fa profitti sulla morte, sui conflitti, sulle guerre, sì, sul dolore delle donne, dei bambini. Quindi questi si sono inventati, come ricordava Valentina pure nella rassegna stampa, si sono inventati attraverso, diciamo, le varie riviste di moda o i vari, diciamo, stilisti, stanno inventando adesso qui in Occidente, e vedrai che ci avrà anche un seguito questo qui, la divisa che si richiama, diciamo, alle no, combattenti. Io lo dicevo così perché Valentina l'aveva inquadrato proprio bene, e dato che già c'avevamo una vittima di queste icone occidentali che hanno rovinato l'unico rivoluzionario del Novecento, che è Che Guevara, sì, non vorrei che le donne curde diventano, certo, questa simbologia, perché poi mentre te fanno vedere Che Guevara in tutte le salse, nessuno conosce la storia di Che Guevara. Noi vogliamo che si conoscono la storia delle donne curde e il coraggio delle donne curde, non la bellezza o il modello della divisa. Sì. Noi ti ringraziamo, siamo emozionati. Grazie per le cose che tu hai detto in un italiano perfetto, quasi, cioè pure i sordi l'hanno capito. Infatti, ho ricevuto un paio di messaggi, ecco, da ascoltatrici della radio che ti fanno i complimenti per la padronanza. E qualche volta senza cosa noi ti cercheremo di utilizzare altre volte su sta cosa, perché un conto raccontarla noi, che siamo contaminati dall'informazione occidentale, un conto che ce la raccontate voi, perché va più diretta e va nei fatti. Okay. Ti ringraziamo e ci sentiamo la prossima volta. Adesso passiamo, noi svoltiamo pagina, adesso parliamo di altro. Okay. Grazie a voi. Ciao, grazie Nico. Grazie. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, Yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Allora riprendiamo la linea e prendiamo la linea subito con una corrispondenza. Si sta facendo un volantinaggio davanti alla sede di Italy a Roma, via Ostia, praticamente alla stazione Ostiense. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Ci sentite? Pronto? Pronto? Ci senti? Io vi sento, voi mi sentite? Pronto? Pronto? Mi sentite? Io vi sento, voi mi sentite? E non sento niente, io manco in cuffia. Mi sentite? Pronto? Pronto? Pronto? Vai, parla. Ma mi sentite? Adesso sì, ti mi sentiamo un po' piano, ma okay. Ti sentiamo. Allora, ci scusiamo con gli ascoltatori e ascoltatrici, cercherò di parlare ad alta voce. Ecco, no, adesso va bene. Va bene, allora ci troviamo dal punto vendita Italy di Roma, che forse insomma molti sapranno si trova alle spalle della stazione Ostiense, e è in un'iniziativa coordinata in varie città d'Italia, Milano, Bologna, Firenze, Genova, Bari, ovunque si trovi un punto vendita più o meno grande di questa vera e propria fabbrica della precarietà che è Italy di Oscar Farinetti. E l'iniziativa è stata parte dalla mobilitazione che a fine agosto ha visto scioperare i dipendenti del punto vendita fiorentino, in seguito a questo sciopero che era stato lanciato per fare pressione per i rinnovi contrattuali, che come sapete insomma qui all'interno, come sapranno penso gli ascoltatori della radio, i contratti all'interno di Italy sono per lo più estremamente brevi o comunque soggetti a una al rapporto con le agenzie interinali o spesso nella forma dell'apprendistato. E in seguito a questo sciopero che si è svolto alla fine di agosto, i tre dipendenti che l'avevano insomma lanciato e promosso sono stati licenziati, non è stato rinnovato il loro contratto ovviamente, però ovviamente Farinetti a quel punto, di fronte non solo a uno sciopero che di per sé non è stato forse molto partecipato ma estremamente sostenuto da più della metà dei dipendenti del punto vendita fiorentino, si è trovato costretto per la prima volta e in controtendenza a quella che era stata la sua proposta iniziale quando aveva lanciato il brand di non relazionarsi in alcuna maniera con i sindacati, è stato costretto a concedere l'elezione dell'RSA all'interno del punto vendita fiorentino. Le assemblee che vedranno uscire la nomina di questa RSA si svolgeranno in questi giorni, in questo fine settimana, si stanno svolgendo, e per questo, a partire da questo piccolo successo, insieme a un accordo che comunque è molto parziale ma inizia a far intravedere una prospettiva di stabilizzazione per i dipendenti di Firenze, e abbiamo pensato insieme a precari e precarie, sindacati, collettivi che stanno lavorando intorno alle prossime iniziative di sciopero sociale all'interno della città di Roma, di partecipare all'iniziativa volantinando, megafonando e distribuendo due volantini. Uno che entra anche attraverso quei ancora pochi ma insomma determinati dipendenti del punto vendita romano, sta entrando all'interno della vera e propria filiera della distribuzione che è in piena attività in questa domenica romana di ottobre, e un altro invece più legato più orientato alla clientela. All'interno di questo volantino dedicato alla clientela abbiamo stampato un coupon in cui si promuove la distribuzione alle casse da parte degli stessi clienti che stanno dando questo coupon, in cui si spiega che qualora continuasse questo regime di precarizzazione all'interno di Italy, lo stesso cliente non comprerà più nel punto vendita. E ci stiamo rendendo conto di quanto questa, diciamo, tecnica di boicottaggio del marchio Italy, spiegando cosa si cela dietro la retorica degli alti cibi, la retorica del buon padrone che dà lavoro in un paese devastato dalla disoccupazione, si nasconde comunque un sistema di ricatto e precarizzazione che, oltre ai contratti a tempo determinato o talmente determinato da a volte essere anche di un mese, anche là dove ci sono forme di contratto indeterminato si trovano pressioni, dequalificazioni, turni rigidissimi e massacranti. Quello che, insomma, stiamo cercando di costruire non solo all'esterno ma appunto anche all'interno, quindi, è una presa di coraggio, una presa di parola che veda protagonisti gli stessi dipendenti di Italy, che insieme ovviamente al modello Farinetti, che è quello, diciamo, che si sta costruendo intorno a tutto un mondo del lavoro di media e bassa qualifica in Italia, un mondo del lavoro che vede protagonisti per lo più i giovani sotto i 30 anni e quindi soggetti per esempio agli apprendistati o alle forme di stage spesso gratuite, fondamentalmente si sta strutturando il modello della precarizzazione a lungo termine che il Jobs Act porta con sé. Non è un mistero che appunto Farinetti e Renzi rappresentano un tandem che stiamo denunciando con lo striscione fuori dal punto vendita che è da Firenze a Roma, smontiamo il modello Renzi-Farinetti e Stop Jobs Act, quindi cercando di promuovere questa un'immagine che cerchi di comunicare quanto siano prossime le politiche le politiche orientate al mercato del lavoro e quanto siano poi concretamente devastanti il modo in cui queste politiche vengono già da tempo, prima ancora che il Jobs Act sia effettivamente una vera e propria legge, fondamentalmente rappresentino ancora già la realtà con cui si lavora in questo paese. Senti, Giovanni, intanto due riflessioni: come reagiscono gli avventori di questo locale alle vostre iniziative, quale reazione ci hanno, se ci hanno attenzione o meno, e queste iniziative sono in preparazione dello sciopero diffuso del 14 novembre, fanno parte di questa situazione? Allora, la prima questione è non solo la clientela reagisce ovviamente in maniera, diciamo, sicuramente c'è un buon feedback, nel senso che molte persone stanno prendendo il volantino, lo distribuiscono, staccano il coupon e lo distribuiscono, molti si fermano a parlare, poi ovviamente, insomma, il paese è quello che è e Italy ovviamente non fa eccezione, abbiamo anche chi evidentemente si sente esonerato da qualsiasi presa di responsabilità o anche solamente parola solidale e gesto anche per quanto poco impegnativo nei confronti dei precari di questa punto vendita. Quindi c'è un buon feedback. È curioso, però questo ci tengo a sottolinearlo, che dopo i primi minuti in cui evidentemente le casse venivano sommerse di questi coupon, hanno iniziato a ridarli indietro ai clienti, cercando invece di distribuire un volantino evidentemente stampato ad hoc, probabilmente, insomma, che questa giornata evidentemente era stata prevista una mobilitazione, e un volantino stampato ad hoc in cui si grida al ora basta denigrare il San Oscar Farinetti, che insomma fa lavorare dove non si lavora affatto. Ovviamente è un po' un paradosso, perché gli stessi clienti ci vengono e ci danno a noi, dicono guardate cosa stanno a dare, noi manco lo prendiamo, lo lasciamo a loro. Insomma, speriamo ovviamente che questa cosa, ci stiamo rendendo conto di quanto il danno d'immagine poi fondamentalmente costi all'azienda, anche l'attenzione che alcuni media mainstream hanno dato, alcune testate giornalistiche hanno dato alla precarietà made in Italy, ha effettivamente fatto andare a stappare un pochino appunto questo tappo che faceva sì che sordi, non si parlasse per niente di lavoro, condizioni di lavoro e di precarietà. Per quanto riguarda, diciamo, il percorso, beh, allora, c'è da dire che sono mesi che si sta cercando di riuscire a costruire un all'interno di Italy una qualsiasi forma, diciamo, di opposizione al ricatto e alla precarietà. Siamo venuti qua il 1° maggio, siamo venuti in varie occasioni. Ovviamente siamo dentro questi processi che vedono nei prossimi settimane mobilitazioni di carattere più complessivo, ma sicuramente un dato in questo momento che si cerca di ottenere è la presa di coscienza, l'aumento della consapevolezza e la costruzione di un nucleo all'interno del punto vendita che sappia in qualche maniera smontare un po' il giocattolino di Farinetti e fargli iniziare a costruire degli elementi di insubordinazione a quelle che, dietro una maschera ovviamente estremamente attuale rispetto alla gestione del brand, alla centralità che ha l'immagine, alla centralità che ha il prodotto, che ha il cibo dentro questa filiera produttiva, poi si nascondono delle condizioni di lavoro che sono a dir poco degli anni 50, insomma. Va bene, noi diciamo famo bastare questa cosa, noi proseguiamo con la trasmissione, benissimo, speriamo che poi queste cose crescono fino a arrivare a diventare un blocco sociale reale nei vari posti, come esatto. Italy, come Ikea, come la logistica, come alla Fiat dovrebbe cominciare a diventare qualche cosa, di fare un blocco affinché insomma cominciamo a contare pure noi, perché fino adesso a noi ci viene a pesce in faccia ogni volta che diciamo queste cose sacrosante. Alla prossima puntata, come si dice, alle trasmissioni. Buon proseguimento. Ciao. Ciao. Allora. Ma spendiamoci due parole sopra, insomma, non. Cioè, qui il problema sono le numerosissime tipologie di rapporto di lavoro che governi di centro-sinistra hanno immesso sul mercato del lavoro. Quando si diceva che il mercato del lavoro in Italia era rigido, bisognava renderlo flessibile, l'Europa chiedeva flessibilità, assolutamente cosa non vera, tant'è che ci sono procedimenti di infrazione proprio sul precariato fatto dall'Europa verso l'Italia, e quindi c'è stata un'esplosione di cosiddetta flessibilità che poi si è tradotta ovviamente in estrema precarietà. Era una cosa che noi abbiamo denunciato immediatamente. Quindi adesso il problema è quello di eliminarle queste tipologie di rapporto di lavoro, perché è ovvio che se un padrone, chiunque esso sia, o datore di lavoro, chiamatelo come volete, intende assumere personale a tempo determinato, 3 mesi, 6 mesi, quello che sia, e poi non ti rinnova il contratto, non è che commetta un abuso. Qui il problema non è nell'abuso, perché io ti assumo per 3 mesi, quindi tu sai che sei assunto per 3 mesi, se poi non ti rinnovo il contratto, non è che il datore di lavoro è il colpevole di questa situazione. Il colpevole di questa situazione sono i vari governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni, che hanno prodotto 53. Una situazione, 43 tipologie di rapporti di lavoro, che hanno prodotto una situazione che consente al datore di lavoro di non assumere a tempo indeterminato, che non ha paletti in questo senso, quindi non se ne esce. Cioè, non è che uno si può affidare alla bontà del padrone. Allora, innanzitutto bisogna rivendicare una rappresentanza sindacale all'interno dei posti di lavoro, perché se viene a mancare la controparte rispetto al datore di lavoro, tutto diventa molto complicato. Diventa datore il tuo amico Renzi ha detto che vanno superate queste cose. Diventa datore di lavoro contro, quindi l'azienda contro un singolo lavoratore, e ovviamente i rapporti di forza sono estremamente squilibrati. Qui il problema è che bisogna eliminare almeno 40 delle 43 tipologie di rapporto di lavoro che gli amici tuoi hanno consentito a Ettore, capisci? Ogni tanto ricordiamoci che al governo ci sono stati Rifondazione e tanti altri e l'hanno introdotti loro, non ce lo dimentichiamo, non l'ha messa lì Renzi. Allora Renzi ha le sue colpe, ma la situazione attuale non è altro che il risultato di 20 anni di politiche del cavolo portate avanti da governi sedicenti anche di centrosinistra con componenti sedicenti comuniste. Questo sia ben chiaro, perché chi non capisce il passato non può capire neanche il presente né il futuro. E allora, per stare al presente, Robè, io direi subito di aprire una discussione su una questione, no? Che sicuramente interesserà i nostri ascoltatori. Allora, qui c'è, è stato presentato, ma si fa per dire presentato, un piano del lavoro, no? Il Jobs Act, che secondo noi è una cornice alla quale manca il quadro, o se vogliamo usare un'immagine letteraria, è una sorta di libro nel quale però manca la trama. Ora, la cosa più pesante è quella... C'è la telefonata? Sì. Benissimo. È lui che le provoca. Pronto? Ciao, buongiorno a tutti, compagni. Vai. Sentite, qui, come dire, a parte parlare, come dire, della pianta di gerani che adesso sta sedendo lì a Palazzo Chigi, ma quella lasciamola perdere, insomma, tanto va annaffiata ogni tanto e poi insomma, poi sfiorirà pure quello. Cioè, come dire, noi compagni lo sappiamo benissimo quello che è successo negli ultimi 20 anni, lo sappiamo, da Treuma, ma da Ciampi prima, Amato e così via, cioè la distruzione dello Stato sociale e del lavoro e dei lavoratori, dei diritti dei lavoratori è chiara, solo che però il problema è che non avevamo nessuno lì a difenderci, avevamo ben chiaro quello che stava succedendo, abbiamo fatto manifestazioni, occupazioni di luoghi di lavoro, battaglie sul luogo di lavoro, abbiamo subito i licenziamenti, abbiamo subito rappresaglie, ma tutto questo non è servito, perché nei punti dove c'era la possibilità di fermare quel flusso di leggi che poi ovviamente, come dire, servono poi per poter impiegare la polizia contro di noi, la magistratura e così via, quelli che c'erano e che noi così stupidamente abbiamo mandato lì ci hanno traditi. Ovviamente, come dire, adesso sappiamo benissimo i loro nomi, sappiamo benissimo per quale motivo ci hanno traditi e così via, e tutto quello che sta succedendo anche a livello di diserzione del voto, perché non, come dire, insomma, le europee ultime stanno lì a testimoniare che prendere il 40% del 50% dei votanti, insomma, anche chi ha fatto le elementari riesce a calcolarselo senza problemi, sta lì a dimostrarlo. Ora, noi altri non è che adesso abbiamo soverchie illusioni, ok, ma magari sto generalizzando un po' troppo e devo parlare solo per me e per pochi altri, non è che abbiamo delle illusioni su, come dire, i nuovi sedicenti o maldicenti vendoliani e compagnia bello, che tanto, come dire, per noi sempre immondizia sono e rimarranno. Non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nei confronti di chi potrebbe o dovrebbe così rappresentarci, anche quei buffoni che vanno a fare i cerimoniali di piazza, di quei vari casarini e così via. Quindi l'unica cosa è che a un certo punto avverrà quello che avviene nei processi storici, cioè si raggiungerà una massa critica di diseredati e alla fine quei diseredati ci sarà il cane sciolto e poi alla fine, signori, chi si è visto, perché cioè non è che la memoria si cancella dal giorno all'altro, cioè io mi ricordo benissimo i vari Bertinotti, i vari Giordano, Rizzo e così via che stavano lì in Parlamento, la Tiziana Maiolo eletta in Rifondazione, capito? Cioè non è che stiamo lì a scordarcene, e poi sta gente qui andrà, capirà che qualcuno l'andrà a cercare, c'è poco da fare, perché, come dire, se io sarò condannato, io o chi altro, saremo condannati a morte per privazione del reddito e quindi per privazione del cibo, della casa e così via, cioè l'ultimo atto è superfluo dirlo quale potrà essere. Certo, magari, come dire, sono parole di disperazione, sono parole che non incitano a unirsi nella lotta e piripì e parapà, ma il problema è che 20 anni e forse più di situazione italiana che è degenerata in questa maniera, con tutta una massa di gente che si è venduta al miglior offerente. Cioè, ricordiamoci le telefonate di Vendola con l'addetto stampa lì della cosa dell'industria di Taranto che ridacchiavano fra loro e così via, cioè, ma ci rendiamo conto di che cosa è successo? Cioè cose allucinanti, cioè pazzesche. Quindi non, cioè, c'è poco da fare, cioè adesso sì, vabbè, eliminiamo i contratti, sì, ne parliamo fra noi, siamo tutti amici, volemo se bene, però poi, dopodiché, poi quando ci siamo, come dire, abbiamo bevuto l'ultimo calice fra noi, che ne so, di vino rosso o d'acqua, ci siamo stretti la mano, ci siamo abbracciati, ognuno a casa propria, dopodiché poi ognuno prenderà le proprie decisioni. Ciao. Ciao, grazie. Non sei... Il fatto che questi mali ancora persistono, perseverano, continuano a candidarsi come forze di rappresentare il conflitto, cioè ormai non infinocchiano più neanche lo straniero che arriva coi barconi dopodomani, no? E, sì, ma è troppo. Sì, sarebbe il momento di uccidere questo vecchio per far nascere quello nuovo. Ma sono 40 anni che la Juve ruba i campionati e continua, vedi? Le cose continuano, se qualcuno non interviene e comincia a fare un po' di chiarezza, e dobbiamo cominciare da noi a nessuno farlo. Mai ha negato questa chiarezza. Senti, rimane... che bisogna cominciare da noi a interrompere una coazione a ripetere, questo qui è in dubbio, perché la coazione a ripetere è qualcosa di diabolico. Però detto questo, oggi per me il nemico principale, e non so nemmeno più sto ciarpame della pseudosinistra, noi qui abbiamo un altro nemico che agisce. Ragazzi, è successa una cosa in questi giorni: il Senato è stato costretto a votare un voto di fiducia, la cosiddetta minoranza del PD ha dovuto chinare il capo. La fiducia significa che è stata votata una legge delega sulla base della quale, io apposta dicevo, Giacomo, che noi stiamo in una cornice senza quadro, significa che nei prossimi mesi sarà il governo manu militari motu proprio a decidere cosa si farà, a mettere i contenuti. Il Parlamento dovrà stare zitto e mosca. Quindi pure questa questione della democrazia rappresentativa è andata a puttana, a pallino, è andata a pallino. Allora questi qui decideranno. Io vorrei entrare nel merito di alcune questioni. Dentro questa legge delega, dentro questo, diciamo, perlomeno i titoli, ci sono delle polpette avvelenate. Cominciamo a parlare, per esempio, secondo noi, che cosa può significare la questione del demansionamento, cosa può significare la questione di abdicare al contratto nazionale e cederlo ai contratti aziendali, cosa significa per esempio mettere le causali, intervenire sulle causali disciplinari per quanto riguarda l'articolo 18. Io ho l'impressione che si dia mano libera, diciamo, agli imprenditori, alle imprese. E controllo a distanza dei lavoratori è prevista, si dà mano libera non solo al governo ma agli imprenditori, a quelli che coloro non vuoi chiamare più padroni. Capiamo. C'è una telefonata. Pronto? Pronto, mi sentite? Buongiorno. Buongiorno, di. Buongiorno a tutti voi. E niente, chiamo dai Castelli Romani e volevo un attimo entrare un po' così a gamba tesa, perché volevo ricordare un paio di appuntamenti importanti. Sì, è un appuntamento necessario, non importante. Sì, in realtà sono due gli appuntamenti qua a Castelli, perché è già previsto da tempo l'iniziativa pro resistenza palestinese all'Ipoli Marino, e quindi manteniamo alle 5:30 questo incontro organizzato direttamente dal collettivo Canafani, che è un gruppo dei compagni palestinesi e anche alcuni compagni italiani, e a seguire questo incontro, quindi verso le 8:30, ci sarà la cena a sottoscrizione a favore del collettivo. Però visto insomma che Forza Nuova vuole aprire una sede ad Albano a 30 metri dalla storica libreria di Peppe e di Paola, tra l'altro, questo buco noi ovviamente non ce lo vogliamo, non vogliamo nessun tipo di agibilità per questi soggetti organizzati che hanno annunciato la presenza del segretario Roberto Fiore, che sappiamo tutti chi è. Insomma, fatto sta che mentre loro vorrebbero inaugurare alle 4:30 il loro covo, noi ci diamo un appuntamento ad Albano alle 3 in piazza San Pietro, a 200 metri dalla piazza principale, sempre lungo il corso principale. E brevissimamente, ieri abbiamo già fatto un presidio molto corposo ad Albano, perché inizialmente la loro iniziativa era prevista proprio per sabato 11, in concomitanza tra l'altro con l'anniversario della morte di Pib, che ho visto dai giornali oggi è stato rievocato a Roma da alcuni soggetti, proprio con una messa, mi pare, a Ponte Sant'Angelo. bisognerebbe denunciare per ideologia del fascismo il prete e sì, anche l'avvocato. Sì, vabbè, ricorderete tutti quello che è successo a Barano l'anno scorso, non mi ci soffermo, su quando arrivò il famoso caro comune ebreo codazzo dei nostalgici al seguito. Il fatto sta che insomma ieri abbiamo fatto questo presidio molto corposo, eravamo più di un centinaio, eravamo tutti castellani, non autorizzato, sempre in piazza San Pietro, c'eravamo solo noi e insomma le guardie che stavano in maniera molto poco discreta a difendere la sede dei detti soggetti che sono totalmente estranei al territorio tra l'altro. E invece loro non si sono fatti vivi, tanto che l'hanno spostata a questo pomeriggio. Beh, cerchiamo di impedire insomma l'insediamento di questo covo, perché comunque crea delle problematiche che non c'è bisogno che ve sto qui a spiegare, anche se sono quattro idioti che verranno probabilmente da tutte le parti, fuorché da Albano e dai Castelli. Invitiamo i compagni e compagne che vogliono salire a contattarci prima di arrivare, anche perché pure oggi non è autorizzato niente per quello che ci riguarda, mentre loro possono stare tranquillamente intorno alla loro sede, che è un buco di 3 metri per 3 senza accesso, ma pieno di merda probabilmente. E niente, tutto va bene. Sì, grazie. No, riprendo un attimo e concludo, ve lascio la parola ovviamente. Dico, di fronte al fatto diciamo che sono rappresentate, come dicevo, dentro questo atto, anche se in maniera ancora del tutto embrionale, delle polpette avvelenate, nello stesso tempo si fanno dei pronunciamenti molto enfatici, eclatanti, sul fatto che di una possibile ripresa, di mettere in campo posti di lavoro. Ma queste sono tutte promesse a futura memoria, perché nello stato attuale io vedo solo sto dato e poi mi tacito. La realtà è questa, che ogni mese scattano 90 milioni di ore di cassa integrazione. Fatto un computo rapido, per l'anno si scavalca 1 miliardo di ore di cassa integrazione. Di queste ore 515.000 lavoratori stanno da gennaio a zero ore in cassa integrazione, a zero ore, con un taglio del monte salari di 2 miliardi e 750 milioni, che pro capite per questi lavoratori significano 5.000 euro netti l'anno in meno per fare la spesa, per pagare le bollette. Ma mentre ci sono questi 5.000 euro in meno, scatta la TASI, la TARI, che sarà in aumento, scatta le aliquote aggiuntive dell'IRPEF e le aliquote comunali, che sono aumentate, e scatterà, come pare sullo sfondo, un aumento dell'IVA. Questa alla faccia dei consumi. La tassa sul macinato, perché l'IVA che va a aumentare è l'IVA che sta al 4%, la vogliono portare al 10%. E questa è la tassa del macinato, perché al 4% ci sono i prodotti di prima necessità: pane, olio, latte, formaggi e via dicendo, medicine. Questa è una tassa del macinato e la pagheranno quelli degli 80 euro. Si ripropone il binomio meno lavoro più tasse. Io adesso qui non è che noi vogliamo, ci esercitiamo a fare del terrorismo, io sto ai dati da fatto, a quello che c'è sullo sfondo, ed è questo. Ora questo qui, e ritorno alla telefonata. Se la telefonata vuole essere una sollecitazione a noi ad organizzarci e a organizzare le forze a livello di massa, e dobbiamo partire da queste questioni, queste che mordono sulla pelle della gente, sono queste, sono le tasse, la mancanza del lavoro, la cassa integrazione, abbiamo visto per esempio quei pateracchi che si stanno facendo a Termini, non lì si capisce chi è la matriosca, da quante pupazzetti è formata la matriosca che dovrebbe essere colei che va a gestire la nuova Termini Imerese. Non si capisce dove sta la sede legale, dove sta la sede finanziaria, chi sono i padroni. Cioè stiamo dentro alla fine finisce in Giappone. Stiamo dentro, non in Giappone, in India e in Cina. Allora, ma Serafino, io sono d'accordo con quello che hai detto, solo che c'è una questione. Cioè, qui non è che possiamo dire, da una parte c'è il governo che è cattivo, dall'altra parte c'è l'opposizione anche interna al PD, che invece, ma a me non mi rappresenta Fassina, D'Alema. Ma sta gente e qua. Chi devo sta a dire? Allora il problema non è se hanno imbavagliato l'opposizione interna al PD. Se c'è imbavagliano a noi. Il problema è che questi comunque a noi non ci rappresentano, perché sono gli stessi che hanno prodotto questa situazione. Quindi o sono le masse che si ribellano, o se no sta lì a inveire contro Renzi perché ha posto la fiducia. Io la vedo come una grande presa. No, no, Roberto, allora, bisogna essere chiari su questa questione. Noi dobbiamo inveire contro Renzi per quello che fa e contro costoro che invece d'andarsene ancora costoro continuano a fare sto macabro balletto. Il problema nostro è un altro: organizzare le forze, allora, e organizzare le masse su questi terreni concreti. Allora, il problema che ha messo la fiducia o no è un problema che non mi riguarda. È un problema tutto interno al PD, che, con cui io non ho nulla a che vedere, neanche un millimetro di storia politica. Qui il problema è portare la gente a avere una consapevolezza di quello che accade, che purtroppo sono tutti rimbambiti dai media, dal show, eccetera, eccetera, dove si parla di tutto tranne che delle problematiche vere, no? Per cui ci sono questi formatori dell'opinione pubblica che sviano in continuazione l'attenzione dei veri problemi e dei veri responsabili. Prima si parlava di Genova, ma non ci prendiamo in giro. A Genova sono 3 anni che i lavori sono bloccati, cioè erano stati stanziati i soldi per mettere in sicurezza tutte quelle questioni là, bloccati da 3 anni per un ricorso al TAR fatto da imprese che avevano perso la gara, e questi signori del TAR ci hanno messo 3 anni per dire qualcosa. Ora, cosa vuol dire questo? Che le problematiche in casi come quello di Genova nascono sempre dalle stesse fonti, ossia dagli impicci e imbrogli che fanno sui lavori pubblici, perché se una ditta fa ricorso al TAR dicendo che è stata esclusa ingiustamente, vuol dire che c'è stato un impiccio, o si presuppone che ci sia stato un impiccio. Conclusione: i lavori non sono partiti, pur essendoci i soldi, le risorse stanziate, e è successo quello che è successo. Quindi io invito a capire e individuare le responsabilità. La questione della TASI, della TARI, sì, abbiamo già telefonato, ma apriamo. No, è una chiamata che abbiamo fatto noi, non vorrei. Ah, bravo, ok. Perché ho un lavoratore dell'RSU di Terni, c'è questo conflitto, c'è la fabbrica presidiata, ci sono 500-600 licenziamenti, no? Gli stanno chiedendo proprio la riduzione dello stipendio. Insomma, è l'avanguardia di quello del job act, dell'effetto che deve venire. Sentiamo che cosa si sta preparando e cosa c'è in futuro per questa fabbrica, e se per caso è una di quelle fabbriche che Lagnini vorrebbe occupare. Pronto, dici? Buongiorno intanto, e grazie dell'attenzione che ci date. Noi stiamo preparando, o meglio, stiamo continuando con scioperi, presidi ed iniziative che provano a far parlare di quello che sta succedendo a Terni intorno all'acciaio speciale Terni, l'azienda siderurgica storica di questo territorio. Siamo di fronte a un piano di una multinazionale tedesca che vuole dimezzare le produzioni ternane. Sta mettendo in discussione i livelli occupazionali, ma più che questo sta mettendo in discussione il futuro, la futura sopravvivenza della fabbrica. Quindi stiamo facendo tutto il possibile affinché ci sia un'attenzione specifica, particolare del Presidente del Consiglio, e si provi in qualche modo a difendere un'azienda storica di questo paese. Ma ci sono delle iniziative in corso, scioperi, sì. Presidi, noi qualche sappiamo, cosa è? Perché se aspettiamo che il Presidente del Consiglio, che prende gli ordini dalla Merkel, viene a risolvere il problema, penso che il problema è già risolto, cioè la chiusura della fabbrica. Noi da giovedì siamo con presidi permanenti davanti alle portinerie, abbiamo fatto da giovedì fino a domattina alle 6 lo sciopero totale di tutto lo stabilimento. Da domani iniziamo con una forma di sciopero più leggero, ma continuano i presidi, continuano le iniziative, manifestazioni, cortei cittadini. Abbiamo bloccato la stazione, abbiamo in programma altre iniziative per domani, dopodomani, quindi tutti i giorni. Abbiamo proclamato lo sciopero generale di tutta la città di Terni per il 17, venerdì, al quale parteciperà anche il nostro segretario Susanna Camusso, quindi abbiamo una settimana ricca ed intensa di impegni, con la speranza che queste azioni che facciamo riescano a far pressione sul governo e a far capire che qui si sta perdendo un pezzo fondamentale di storia industriale del paese, si sta mettendo in discussione un'intera città, perché intorno alle acciaierie ruota tutta l'economia di un'intera città. Bene. Sì. Io va bene così, abbiamo dato grazie. Questo fatto, sicuramente mi aspettavo, no? Un po' ci risentiamo, sicuramente poi sentiamo, magari domenica prossima ti ricamiamo, ci dici sì, come vanno no. La situazione. Se però ti come do no, il no. Mio giudizio così, quando mi dici che vi state affidando, forse non ci avete altro di meglio. A chi questa condizione altro, l'ha provocata, perché dalla ThyssenKrupp insomma se ne sarebbe dovuto parlare, la deindustrializzazione viene da molto tempo, si è visto pure con l'Ilva di Taranto, chi poi avrebbe potuto fare quando era il tempo e non l'ha fatto e si mette a guardia dei buoi quando le porte sono già aperte, capito? C'ho un po' certo. Di dubbi sì, io, sì. No? Sì, sì, ma questo purtroppo è quello che c'è, e a questo dobbiamo giustamente ci affidarci, a questo dobbiamo chiedere. Noi altre cose non le non vediamo e non ce l'abbiamo in mente, è l'unico arpiglio che abbiamo per provare a contrastare le politiche di una multinazionale, che sempre di più è evidente che hanno uno strapotere nei confronti dei governi e dei territori che non è accettabile. Benissimo, auguri, noi staremo vicino a voi, eventualmente per dare voce ai lavoratori ci sentiremo ancora, vi chiameremo grazie. Pure domenica prossima. Grazie mille, grazie. Ciao, mille. Ciao. Posso grazie. Fare una battutaccia, però qui è un'emesi storica, perché il polo siderurgico calabrese, che era molto fiorente, subito dopo, ma sono venuti i piemontesi, subito dopo l'Unità d'Italia bisogna riscrivere la storia d'Italia, smontato letteralmente, trasportato a Terni, no? E oggi purtroppo vabbè è abbattutaccia, però è tanto per ricordare la storia, come sono andate certe perché dici cose. Che la Calabria era un paese industriale, sì, aveva il polo siderurgico certo. Più sviluppato, la Calabria era il centro della cultura in quel periodo, il polo ma pure siderurgico al tempo dei greca, stiamo parlando di quel periodo della fine. No, lui va addirittura alla Magna Grecia, vabbè lasciamo c'è so il io. Polo siderurgico Magna Grecia, sì, ma questo trasferimento fu fatto con la garanzia dello Stato e degli istituti di credito, cioè hanno smantellato l'acciaieria che stava giù in Calabria e l'hanno riportata su sì. Con i sussidi statali già all'epoca, sì sì, ma chiaramente è sempre la solita storia. Comunque chiudiamo la parentesi storica, entriamo un po' nel un po' più nello specifico, rapidamente sulla questione di Terni, ma non solo Terni, qui c'è tutto l'indotto o i centri comunque produttivi che riguardano l'acciaio che stanno completamente ormai in smobilitazione, no? Quindi io credo che tutto sto ragionamento bisognerebbe cercare di ricondurlo in maniera unitaria, perché quello che succede a ThyssenKrupp o comunque l'acciaieria di Terni, anche se su questioni specifiche diverse, apparentemente diverse, poi la stessa cosa che sta avvenendo a Livorno, a Piombino con la Lucchini, all'Ilva di Taranto, c'è la magistratura che ha bloccato miliardi dei Riva e stanno ancora decidendo se questi soldi possono essere utilizzati per ristrutturare le acciaierie di Taranto in maniera tale che non siano più fonte di inquinamento. A seconda di quella che sarà la decisione finale, ossia se questi soldi che sono stati sequestrati ai Riva, immobilizzati, diciamo, forse glieli restituiremo con gli interessi, no? Appunto, c'è anche il rischio che si dica no, quei soldi non si possono utilizzare, ci scusi signor Riva, adesso glieli ridiamo. Però tutta la questione è legata a alcune problematiche che è da tempo che cerco di portare così un po' alla luce, che non si, cioè, beh, invece ogni cosa viene vista a sé stante, cioè a Lucchini e la Lucchini, l'Ilva e l'Ilva, ThyssenKrupp e ThyssenKrupp, ma qui non è così, non può essere così. Se tutto quello che riguarda il polo di produzione dell'acciaio sta in grande crisi in Italia per tutta una serie di motivi, io credo che bisognerebbe tentare di fare uno sforzo per avere una visione unitaria per quanto riguarda la produzione dell'acciaio in Italia, in Europa, il rapporto con i tedeschi e a livello internazionale e anche con i francesi. Tra l'altro adesso stanno probabilmente, uno degli acquirenti che si è fatto sotto questo gruppo franco-indiano, che potrebbe rilevare, ma insomma è tutto ancora in grande discussione. Due sono le questioni fondamentali: una, le emissioni inquinanti, che assolutamente non possono più rimanere quelle che erano, quindi investimenti, grandi investimenti, e l'altra questione riguarda appunto la sovrapproduzione d'acciaio e quindi una redistribuzione delle quote anche a livello europeo. Vabbè, questo per quanto riguarda il ThyssenKrupp. Su Genova abbiamo detto, no? Sono sciagure annunciate, perché quando si bloccano per 3 anni i lavori che dovevano partire con le risorse stanziate, io prenderei chi ha trascinato per tutto questo tempo la situazione e li metterei minimo a spalare il fango, no? Questa è la questione. Altro che hanno trovato, allora, i giovani genovesi che per quanto loro, riguarda io. la Tasi, io voglio ricordare che la legge nazionale, la legge centrale, dà un range ai comuni, no? Che può arrivare al massimo al 2,5 per mille. Quindi sta ai comuni poi individuare qual è la tassa da imporre ai cittadini. Quindi voglio dire, il governo centrale sì, ovviamente tende a raccimolare soldi, però è anche vero che sono i comuni che poi gestiscono direttamente questa tassa. Allora, ci sono comuni che non l'hanno manco applicata, ci sono comuni che hanno dato il massimo e comuni che hanno dato quote intermedie, e quindi qui c'è una responsabilità diretta, perché o tutti i comuni fanno la stessa cosa, dice allora la situazione è uguale per tutti. Sì, però oppure... spiega pure che questa cosa avviene perché il governo taglia ai comuni e dice: se volete recuperare le risorse potete aumentare le tasse. Scusate Robert, scusa se intervengo un attimo, ma io usavo però per altri motivi la questione delle tasse. Io non è che sto a incitare adesso che poi queste tasse vengano riscosse dal comune e dallo Stato. Questo qui a me in questo momento interessa poco. Io dico che a fronte di gente che perde 5.000 euro l'anno nette e si trova a dover pagare sta sfilza di cose in questi giorni, questi come cazzo fanno a pagare? Cioè, questa io volevo una questione di tipo sociale. Ma i soldi non si stampano. Ma la gente pure non è che può morire di fame. Appunto, bisogna ribellarsi. Ma certo se, che bisogna ma ribellarsi. Ma se questi si mangiano tutto, io parlo delle amministrazioni locali. Poi ci sono le responsabilità dello Stato centrale. Voi dite, ma lo vedete a Roma? Ne parliamo da tempo, no? Mo addirittura il signore Rutelli e Margherita hanno fatto ricorso contro la condanna a Lusi, cioè a quello che si è fregato più di 20 milioni di euro, e hanno fatto il ricorso contro, no? Perché dice no, che famo? Ce l'avete i soldi? Ma quei soldi li avete rubati, no? Il signor Rutelli, che all'inizio diceva che avrebbe collaborato anzi con i giudici perché emergeva, ma addirittura fanno il ricorso contro al Mose, l'abbiamo visto che è successo, all'Expo abbiamo visto che è successo, all'ATAC di Roma abbiamo visto che è successo, tutti impuniti. Ma chi cazzo è che stampava sti biglietti dall'ATAC? Roberto, se su tre autobus due stanno fermi perché mancano i pezzi di ricambio, ma la colpa di chi è? Che hanno tagliato i fondi? No, è che si sono mangiati tutto. Torniamo un attimo a bomba, Ettore. No, intanto voglio chiarire, diciamo, alcune argomentazioni di prima. Questo a beneficio mio, de Roberto, che faceva alcune osservazioni, ma soprattutto di chi ci ascolta. Poi chiamiamo in causa pure Giacomo. Intanto io non usavo l'argomento della fiducia perché con la considerazione che personale che ho di questo Parlamento, diciamo che è ridotta ad uno straccio, mi interessa poco se viene posta la fiducia o no. A me mi interessa un'altra cosa, che ci sia una delega in bianco a Renzi, al suo governo, su questioni salienti. E prima le citavo, e qui chiama in causa pure Giacomo oltre che Roberto ed Ettore. Io voglio sapere su queste questioni che si preannunciano del demansionamento, sulle questioni dei contratti aziendali, del controllo operaio, del controllo dei lavoratori, sulle questioni che limitano il reintegro anche nel caso di causali disciplinari. Cioè qui intorno a queste questioni noi dobbiamo esercitare una lotta e il coagulo delle forze. Su questo siamo d'accordo, perché io sono d'accordo con Roberto, non c'è niente da sperare, ma sono d'accordo, lo diceva anche Ettore, non c'è niente da sperare con sto ciarpame che gira, che si ammanta di farsa sinistra e ogni tanto tenta di rifare un listone. Di questo incendio, ma noi cosa facciamo? Questo è il punto. C'era abbiamo una telefonata, vai. Ciao, volevo solo darvi due o tre appuntamenti, cioè darceli, perché ci sono estremamente importanti per l'inizio di questa settimana. Si parte da martedì 14, quando a Roma viene convocata a livello europeo una riunione straordinaria con alcuni membri del triste e tragico trattato transatlantico sulle merci tra Stati Uniti ed Europa. L'iniziativa si svolge in uno dei palazzi storici di Piazza Santi Apostoli, ovviamente vi partecipa Renzi. Il movimento, il forum che è nato contro il TTPI, questo è l'acronimo in sigla, si è dato convocazione, aveva chiesto ovviamente di stare in Piazza Santi Apostoli ed è stato invece obliterato, mandato nella piazzetta in cui neanche si vede l'inizio di Piazza Santi Apostoli, quella sotto la colonna Traiana, e questo sempre per i soliti classici motivi di ordine pubblico, ma direi pure di rapporti di forza. Ancora non si è sviluppata abbastanza la comunicazione su questo nefandezza del trattato transatlantico, che ovviamente nega la possibilità alla sovranità degli stati, addirittura, no? Le multinazionali vincono sugli stati, ne stavate parlando a proposito da ThyssenKrupp, e le multinazionali vincono sulle singolarità dei diritti acquisiti all'interno delle singole statualità. Non possiamo più accampare i diritti del lavoro, a parte ce li stanno portando via strada facendo Joe Bax e Continuing, non possiamo accampare ovviamente la tutela della biodiversità o la tutela del principio di precauzione sull'uso ovviamente di determinate sostanze, vedi gli OGM eccetera, perché a quel punto prevale il trattato. Il trattato istituirà anche un tribunale a questo punto ovviamente internazionale, e che già il tribunale, come dire, internazionale attuale continua a condannare ovviamente gli stati, vedi sulla Philip Morris che ha avuto vittoria su la Danimarca, che metteva sulle sigarette ovviamente nuoce tristemente alla salute. Cioè, siamo a questa, alla mercede, se non sappiamo rompere, come dire, le uova nel paniere. E il trattato è segreto. Ogni tanto si sa qualche piccola spigolatura e ovviamente bisogna riportarlo alla comunicazione, quantomeno alla trasparenza, e poi contestarlo in maniera tassativa. Allora, per chiudere questo primo appuntamento, l'appuntamento è dalle ore 16 alle 20 sotto la colonna Traiana. Faremo in modo, se siamo tanti, di muoverci da lì ovviamente per andare a visitare questi porci, e quantomeno all'attenzione di questa ulteriore zozzeria che viene avanti nel nostro paese in questo semestre governato cosiddetto dall'Italia. subito dopo il 15 e il 16, quindi siamo a mercoledì e a giovedì, mentre il governo ha fatto già passare dal Senato in Commissione alla Camera il Job Act, e che quindi il Presidente della Commissione Lavoro ha detto ovviamente che ci vorrà un po' più di tempo. Sapete che Damiano fa parte dei bersaniani, quindi cercano di prendere tempo, insomma giochetti miserabili da questo punto di vista, ma insomma sta lì ovviamente ancora in Commissione, dovrà ancora prendere corpo tutta questa storia, però già sta alla Camera. Il signorino, il governo Renzi, deposita il 15 di ottobre la manovra finanziaria, che si annuncia di 25 miliardi, quindi un'altra mazzata tra capo e collo. Si dice che mancano ancora 5 miliardi per la cassa integrazione in deroga per pagare gli 80 euro 2015 ovviamente che hanno da tempo annunciato, quindi c'è stata una lira per niente. E probabilmente non si sa da dove tenere fuori questi soldi. Comunque sia, vedremo le carte a partire dal 15. Quindi 15 e 16 è convocata però una iniziativa a carattere nazionale, è stata sottoscritta questa iniziativa da 375 comitati, quelli che vanno dal no al carbone, al no alle trivellazioni, al no al tubo che proviene dall'Azerbaigian, che arriva a San Foca e poi viene su ovviamente dal Salento fino a Ravenna e si insinua ovviamente in tutta la struttura gasificante dell'Italia, dà la licenza di costruire inceneritori dappertutto, rigassificatori, dà la possibilità di devastare ovunque e dovunque, impedisce le bonifiche, non si fa più la bonifica dell'Ilva di Taranto, insomma chi ce ne mette di più di porcherie ce n'è abbondante per tutto. 47 articoli del decreto su Sblocca Italia, che è la peggio infamia al pari del Job Act, insomma. Quindi i comitati, a partire da un tantam ovviamente completamente dal basso, sono diventati appunto 375 e si danno convegno ovviamente con Vito sia il giorno 15, quando il decreto è in discussione in aula ovviamente alla Camera, e il giorno 16, quindi c'è tutto il motivo per poter essere lì presenti a partire dalle 9:30 della mattina in poi, affinché siamo in grado ovviamente di dare questo massimo contributo possibile al tentativo, perché poi si tratta di tentativi, se c'è il rapporto di forza il tentativo potrebbe andare avanti, se non c'è ce la prenderemo nel culo. Per ultimo, oggi pomeriggio, tra qualche ora, alle 15, al centro Ararat dei compagni curdi, si svolgerà una riunione ultracittadina per convocare la manifestazione vera, degna, di numero e di peso per sostenere i valorosi combattenti di Kobane. E quindi l'indicazione è che per massimo giovedì pomeriggio noi scenderemo in piazza ovviamente, e quindi l'invito a tutti quanti di rimbalzarlo tramite questa radio. Buon proseguimento. Grazie. Dunque, a proposito di quello che dicevamo prima, volevo semplicemente dire che il fatto che ci sia la fiducia non è un particolare, cioè nel senso che la fiducia significa che praticamente il Parlamento dà a scatola chiusa, diciamo così, la fiducia rispetto a un'operazione che deve essere ancora definita, perché saranno i decreti attuativi che probabilmente arriveranno verso dicembre a stabilire quali sono le dinamiche di tutto questo del Job Act. E naturalmente non ci possiamo aspettare niente di buono da questo punto di vista, anche perché l'obiettivo sembra ormai palesemente quello di destrutturare il contratto nazionale, di collegare per esempio il salario alla flessibilità, alla produttività. E naturalmente questo discorso poi implica una variazione totale del quadro normativo per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Questa formula, che è una formula che potremmo definire post-democratica, diciamo così, è quella che poi viene in qualche maniera ripresa e riportata nei rapporti di lavoro, perché ormai il problema è quello dell'accentramento del potere anche rispetto alla questione del controllo della manodopera rispetto al padronato. Il padronato deve avere mano libera. E un'altra cosa a proposito della questione dell'Ilva, il fatto che per esempio si sia presentato per l'acquisto dell'Ilva la multinazionale Mittal Alcelor Mittal è una più grande produttrice di acciaio dell'Indiana. Questo dimostra come sono cambiati completamente i rapporti di forza internazionali, e quindi paesi come l'India, che prima erano paesi marginali, anche se pieni di materie prime e di risorse umane, adesso invece cominciano a diventare importanti. Cioè noi, appunto, franco-indiana, perché si è comprata anche la Selor, e quindi di fatto quello che accade qui è anche un riflesso delle trasformazioni che ci stanno all'interno dei rapporti economici mondiali, con l'emergere appunto della Cina, dell'India, di cui forse magari appunto avremo possibilità anche di parlarne. Un'ultima cosa, ci è arrivata una comunicazione che riguarda un'operazione praticamente di polizia che si chiama Mos Maiorum, che in latino vuol dire come facevano gli antenati, che partirà dal 13 al 26 ottobre, che è coordinata dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere del Ministero degli Interni e da Frontex, che ha come obiettivo sostanzialmente quello di loro dicono colpire i gruppi del crimine organizzato, ma nella realtà dei fatti si tratta di riuscire a identificare le rotte attraverso quali i migranti arrivano qua da noi. Questo significa che in pratica nelle prossime settimane 18.000 agenti di polizia cercheranno persone senza documenti. Scopo di questa missione appunto è quella di raccogliere informazioni sulle rotte immigratorie, arrestando il numero maggiore di persone senza documenti. Quindi, e questo avverrà dal 13 al 26 ottobre. C'è stato dovremmo lanciare la parola d'ordine che tutti nascondano i propri documenti, così ci fermano a tutti. No, dovremmo sperare, cioè voglio dire, se è contro la criminalità organizzata dovrebbero rivolgersi contro di loro. Detto ciò, ritorniamo al discorso della fiducia. Ma ragazzi, la fiducia si può dare, ma si può anche non dare. Allora, se tu sei effettivamente uno che ha a cuore, no, le sorti del paese, dei lavoratori, quando il signor tiranno ti dice beh io pongo la fiducia, tu gli dici bene, non te la do la fiducia, ma siccome che non è così, perché gli interessi dei lavoratori e delle classi lavoratrici non è mai stata la priorità per questi signori, ovviamente la loro priorità è mantenere potere, poltrona e stipendi, la fiducia alla fine gliela danno, a parte qualcuno qua e là che no, si dissocia. Ma a parte il fatto che io uscirei da quel partito, no? Se tu non sei d'accordo con le politiche centrali, perché stiamo parlando di cose che sono centrali, tu esci dal partito, non dai la fiducia, e allora è tutta una sceneggiata. Per questo io dico, non ci caschiamo dentro sta roba qua. Allora, noi sappiamo che la legge delega, come è stata chiesta dal governo e quindi da Renzi, ha solo una traccia, non dà, come dire, un vero e proprio trama sulle questioni. La legge delega è una cosa molto precisa, cioè quando il Parlamento delega appunto il governo a fare una legge, ma vengono fissati i paletti ben precisi fino a dove può operare la legge delega. In questo caso sono molto evanescenti, è questo che lascia molto perplessi. Dopodiché, come ricordato, ci sono i decreti attuativi. Cioè, mi spiego, quando si parla di dimensionamento, no? Che a me già la parola mi fa venire un po' la pelle d'oca, però lì poi vai a leggere, emergono due o tre versioni. Poi bisogna vedere qual è quella che passerà, no? Ovviamente tutti noi riteniamo che sarà la peggiore. Però tre versioni, una che dice no, vabbè, ma in caso di ristrutturazione a parità di salario, già c'è però. A parità di salario io ti posso far fare un'altra mansione, è un discorso che ovviamente non è che ci va bene al 100%, però diciamo è temperata come situazione. Se poi il demansionamento è che ti assumo, che ne so, come capo operaio, adesso dico una cosa così a caso, e siccome mi sei antipatico dopo sei mesi rimetto a far facchino, no? È un altro discorso, cose cambiano molto. Stessa cosa che riguarda tutta un'altra serie di questioni, lo stesso articolo 18, che già ricordiamolo è stato fortemente modificato dalla Fornero, con non mi pare che si sono strappati i capelli allora CGL, CISL, UIL e la sinistra del PD, perché l'hanno votata tutti, ricordiamoci, la Fornero faceva parte del governo Monti, che era sostenuta da centrodestra e centrosinistra, e dice che in caso di crisi economica, quindi per motivazioni economiche io ti posso licenziare, comunque non c'è reintegro, eccetera eccetera. Poi sta al giudice eventualmente andare a capire se effettivamente c'era sta crisi economica o no. Allora, quindi già su quello l'articolo 18 è stato duramente colpito. Sulla questione della discriminazione, qui non ci fa un favore nessuno, né la Camusso, né Renzi, né Fassina. Quello sta nella Costituzione italiana e quindi non lo possono togliere. Cioè nessuno può essere discriminato per cause di sesso, di religione, di politica. Quindi è ovvio che non lo possono togliere quello là. Quello che possono fare è agire sul reintegro, che è forse la cosa che fa più paura al padrone, no? Anche se abbiamo visto i numeri, non è che poi ci siano 100.000 cause in questo senso, anche perché prendiamo il Veneto, che è una delle regioni col tessuto produttivo imprenditoriale più alto, e l'articolo 18 riguarda il 2%, il 2% di tutte le imprese del Veneto, no? Allora, semmai il problema è mi vuoi dare il risarcimento? Bene, dammi il risarcimento a 60 mensilità, no? Poi voglio vedere se mi licenzi perché te sono antipatico. Ma chiaramente le cose non stanno così, cercano di dare la possibilità al padrone di restaurare il comando, sottraendogli i diritti, e questo chiaramente non ci piace. Dopodiché vedremo che succede. Renzi in America disse col suo, io non so, buono suo inglese, dice the regulation del totem 18, lo disse in inglese, se lo vedi, una cosa carina che esce su i film, no? Cioè voglio dire, qui sono tutte cose, per esempio, ed è fatto tutto così, la delega sono titoli. Per esempio, quando si parla del demansionamento, oggi c'è la formula del demansionamento nelle varie contrattazioni, solamente che per poterla attuare devono essere fatte concordate con il sindacato, con l'azienda e con il lavoratore. L'impiego già c'è. No, ma c'è pure, ma nel privato. L'inabilità al lavoro a fare certe, ci sono nel privato, solamente che non può essere una condizione unilaterale, che lo decide solo il padrone. Se l'hanno messo dentro sta delega è perché vogliono proprio eliminare la possibilità, dato che ci sarebbe, di eliminare la possibilità che per demansionare si deve contrattare, e vogliono eliminare questa cosa. Così vale pure per la videosorveglianza, che c'è, però ci stanno dei paletti in cui c'è l'informazione, lo scambio, la contrattazione. Se la inseriscono è perché vogliono eliminare quel minimo di controllo, e così si scioglie per tutti i capitoli dei titoli di questa delega in bianco a Renzi. Poi a Renzi, che ormai Renzi gli ordini glieli danno extraparlamentari, da Draghi, BCE, la Merkel e via dicendo, diciamo, lui prende. Però il dilemma se gli dava. Hai capito? No, glieli davano pure gli altri, ma tutte le volte stiamo a dire questa cosa. Lo sappiamo, nessuno. Io quando parlo di Prodi, di Renzi, per me è la stessa cosa. Sto parlando di D'Alema, di Ciampi, di Prodi, di Berlusconi. A me non mi devi spiegare, e ne manca all'ascoltatori, quando noi parliamo gli dobbiamo spiegare che l'ultimo arrivato non c'entra un cazzo con quello dei precedenti. L'ultimo arrivato sta a fare le cose che gli altri precedenti hanno preparato a farlo, e noi oggi abbiamo l'ultimo arrivato da contrastare, e da contrastare coi fatti. Vincenzo ci ha dato 3 appuntamenti, questi appuntamenti devono essere partecipati di massa. Questo discorso di Prickaper, che almeno Albano fecero casino e lo cacciarono dalla chiesa, noi nel silenzio, come se manco ci riguardasse, questi hanno fatto la messa senza nemmeno un rumore, e la cosa si sapeva che c'era questa messa di Prickaper, no? Cioè noi siamo troppo distratti come movimento che ci vogliamo candidare a essere antagonista a questo sistema. E allora ci possiamo rimproverare di questi tipi? È certo che noi specialmente da sti microfoni, non aspettiamo che qualcuno si presenta e si autorappresenta come il rappresentante, quello che fa Grillo, che magari posto di Grillo ci mettiamo Ferrero, Grassi, chi cazzo ce l'ha, ci mettiamo la Spinelli, non nessuna delega di questo tipo. Noi stiamo pensando a come noi dobbiamo reagire su questa situazione. Io credo su sta cosa. Poi un altro appuntamento, che almeno è una giornata di vittoria, di festa, perché poi noi quando vinciamo si scordava a rivendicarle. Oggi c'è la festa al Lago della Snia, levato alla speculazione di palazzinari romani, si stanno facendo un bel pranzo all'aperto sulle rive del lago a Via Prenestina, sono arrivati lì in corteo da Casalbertone e da Via Prenestina, stanno confluendo là. Oggi pomeriggio ci sarà un concerto tipo il primo maggio, per farsi capire, con una serie di ospiti, tra cui ci sono gli Assalti Frontali e la Compagnia del Canto e il Muro del Canto, a quale sicuramente canteranno il pezzo che avevano dedicato al Lago che Combatte. Questa è una vittoria dove la gente ha partecipato a questa vittoria, si è mobilitata, e come si è mobilitata per difendere quel territorio, si deve mobilitare per difendere tutti gli altri diritti. Non è che qui stiamo a parlare e ogni volta ci precisiamo che Renzi, purtroppo, no, Renzi sta a fare quello che gli altri gli hanno lasciato, non è che è una svolta. La stessa cosa diciamo di Marino. Marino non c'ha responsabilità, perché i danni l'ha fatto Rutelli, l'ha fatto Veltroni, l'ha fatto Alemanno, ma Marino non ha dato una svolta. Marino segue lo stesso percorso, lo stesso solco, e lo sta approfondendo ancora di più, perché Roma è più degradata di quando c'era Rutelli e Alemanno. Lui non l'ha cambiata, l'ha peggiorata. Ma non è che mo le colpe sono di Marino, sotto un sistema. E quando si discute di questo sistema si parla di tutto. Non è che tutte le volte dovremmo precisare questa situazione qua, se no poi diventa pesante. Io direi che a questo punto sono le 13:14, possiamo chiudere, andiamo a mangiare, e perciò diamo appuntamento a domenica prossima, ricordando la sottoscrizione. Invito gli ascoltatori, quando vedete qualcuno di Radio Onda Rossa, chiedetegli di staccare un bigliettino, dei blocchetti per la sottoscrizione. Per chi non vuole andare a fare il conto corrente postale, che sarebbe il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, Via De Voci 56 00185 Roma. Dico, dato che noi abbiamo uno share così molto alto di 10.000 ascoltatori, diciamo col sistema radiofonico alle onde, e 100.000 follower sul streaming, speriamo che ognuno di questi mette 10 euro, questa radio risana i bilanci e le strutture tecnologiche. Perciò con sta cazzata finale, che però potrebbe essere pure vera, no? Non ci abbiamo elementi, non mettiamo limiti alla provvidenza, ecco. E dedichiamo a chi sta festeggiando la Snia, finalmente un punto di vittoria, ma San Serafino il lago che combatte, e un pensiero al popolo curdo. Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale.